del compagno Salvatore De Rosa, un compagno, un cinquantino come direbbe qualcuno, ovviamente, che ha avuto la disgrazia di passare repentinamente da uno stato di salute abbastanza normale. Gli era capitato un incidente in casa, quindi i compagni erano andati a trovarlo più volte in ospedale in attesa di quei 3, 4, 5 giorni per potersi risanare, quando nei giorni successivi hanno avuto la ferale notizia che era intubato perché era sopraggiunta un'infezione, senza meglio spiegare le cose, cose che non sono state spiegate fino a questo momento, che se l'è portato via in 48 ore. Come dire, una disgrazia impensabile, insomma. Salvatore, molti di noi, me compreso, non solo l'hanno conosciuto, stimato, vissuto a lungo, in virtù che era uno dei protagonisti delle battaglie che in quella città di Taranto così disgraziata, spesso e volentieri colpita da ogni dove, insomma, e in ogni tempo, e ha combattuto un po' tutte le battaglie che ci sono state a partire dalla fine degli anni 70 in poi, quando tra l'altro si è sviluppata un'enorme mobilitazione di più generazioni che hanno dato vita all'esperienza del centro sociale Città Vecchia, perché stava appunto nella Città Vecchia, che Taranto si divide in due, appunto, tra quella che è più vicina al Mar Piccolo e dentro la vecchia cittadella, e quella estesa enorme che è la parte nuova che sta nel Mar Grande, eccetera. Beh, quell'esperienza fu testimone di una difficile resistenza nei confronti della barbarie che nel frattempo era intervenuta in quella città, che ha espresso addirittura un sindaco coatto, razzista e fascista nello stesso tempo, che andava in giro coi bastoni malmenando ovviamente la povera gente che chiedeva l'elemosina, i neri dell'epoca, gli sbarcati, insomma, eccetera. E furono anni veramente difficili, insomma, compreso lo sgombero appunto di Città Vecchia, più volte rioccupato, poi definitivamente lasciato per andare a prendersi altri spazi, ovviamente diventati indifendibili quelli. Ebbene, Salvatore non ha mai demorso, anzi, con questa caratteristica di pacatezza, di sempre sorriso sulle labbra, di un'enorme riflessione e di cultura che si portava appresso, ha continuato, come dire, non solo a prender parte ai conflitti della quotidianità, ma a portare questa sua riflessione anche in altri ambiti, ambiti ovviamente che sono stati via via particolari, quelli che ha vissuto ovviamente la storia e che continua a vivere la vicenda tarantina. A Taranto c'è una delle più grandi basi navali, ovviamente, eccetera, e quindi la battaglia contro le basi NATO, e quelle sia navali appunto, quelle sia aeree, la base di Gioia del Colle, sono state un ulteriore argomento di mobilitazione insieme alle realtà pugliesi. Così come lo ricordo benissimo, tra i relatori del campeggio di Otranto del 1999, che si caratterizzò appunto come un campeggio abbastanza antimilitarista, insomma, che aveva questa caratura. E insieme ovviamente ci siamo rivissuti tutte le vicende che ci hanno portato qui all'inizio degli anni 2000, quelli soprattutto che ci hanno visto protagonisti rovinati in qualche misura dalla mattanza e dalle sfide ovviamente dello stato repressivo, sia a Napoli che a Genova. A Napoli, insieme a molti di noi, fece da scudo ovviamente alle percosse infami che tentavano di colpire anche infermi, gente in difficoltà, donne, ragazzi molto giovani, insomma. E a Genova si prese l'ospizio di in quella baraonda che era diventata dopo gli attacchi proditori ai Gobas, all'altre parti, insomma, di riuscire a sfuggire a questa morsa andando nel presidio verso la zona rossa di Rete Lilliput, che riuscì tra i pochi a entrare in quella banale, appunto, o purtroppo infame zona rossa. Bene, chi è che non ha visto Salvatore De Rosa nelle vicende, come dire, che ci hanno caratterizzato sia a Taranto ma in tutte le manifestazioni nazionali che si sono vissute, quelle contro la guerra, quelle per la Palestina, per il Kurdistan, contro la precarietà, insomma Salvatore era un appuntamento. Personalmente mi ci soffermavo appunto a rispondere alle sue domande, pezzi di corteo lunghi mezz'ora e passa, sempre attento, oltre quando avevamo avuto la possibilità a Taranto di avere più spazio. E per ultimo è stato, come dire, a fianco di queste nuove generazioni che si sono espresse a Taranto e che hanno preso il nome dei comitati popolari dei quartieri, insomma, che dentro i quartieri in cui vige degrado e precarietà hanno riproposto ovviamente la battaglia dei diritti negati, e insieme ai diritti negati hanno fatto proprio quelle contro le discariche e gli inceneritori. C'è stato un intervento molto attento, prolungato, contro la discarica di Grottaglie. E c'è stata poi quella della sfida vincente nei confronti del rigassificatore di Taranto, dopo quella altrettanto vincente di Brindisi, la battaglia per l'energia pulita, anche in contrasto con le direttive di Vendola, ovviamente, che ha lasciato mano libera ad impestare di presunte energie rinnovabili un po' tutta la Puglia, e soprattutto quella dell'acqua, dove si è costituito in Puglia ovviamente uno dei presidi più importanti della battaglia dell'acqua, insomma, che tuttora è formidabile, riconosciuto, come dire, in termini di movimento ma anche istituzionali. Quindi la battaglia per la legge iniziale popolare, per il referendum vincente, l'attuale battaglia di obbedienza civile, insomma non si è mai tirato indietro. Ricordo, ovviamente, ci siamo rincontrati, risentiti, quando hanno arrestato Bob Aprile alla fine dell'anno scorso, insieme ai disoccupati brindisini, quindi le iniziative che sono state messe a tamburo battente tutti i giorni lì, e le attuali, ci eravamo appena telefonati su questa vicenda, ovviamente gli servivano alcuni telefoni per gli arresti notati, per questa battaglia, per questa campagna che si sta facendo in giro. Insomma, è inutile che io vi allunghi ancora più, come dire, i luoghi, le date, gli interventi, come dire, i contributi a cui Salvatore ha partecipato. Lo ricordiamo che a Redonda Rossa, magari tu non lo ricordi, molti compagni non hanno neanche la percezione di quello che è, ma è abitudine appunto di questa radio, che spazia ovviamente e che viene sentita non solo sul territorio italiano ma ogni dove. Qualcuno sicuramente dirà: ah, ma vedi, andare in onda rossa ce la mette tutta, fa sentire anche questa partecipazione, questa vicinanza, e mette in campo ovviamente quelle che sono le perdite gravi, ovviamente, e quella di Salvatore senz'altro lo è, perché figura di questo genere bisogna, come dire, ricostruirla, insomma, bisogna ricercarla, sicuramente ce ne sono, insomma. Ma a noi piace ricordare ovviamente lui con questa veste, con questi suoi occhiali da professore, con questo suo andamento lento, insomma, con questa capacità di porre dubbi, insomma, e quindi è questo il contributo che, almeno chi ti parla, ma credo la redazione voglia produrre e tributare al compagno Salvatore De Rossa.